Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Gay e repressione sessuale. Le riflessioni che seguono mirano a puntualizzare i meccanismi tipici della repressione dell'omosessualità. L'orientamento sessuale di un individuo è legato all'oggetto spontaneo del suo interesse affettivo e sessuale, cioè del suo spontaneo desiderio affettivo e sessuale. Questo significa che è gay un ragazzo che si innamora di altri ragazzi, che tende spontaneamente a costruire rapporti affettivi con altri ragazzi, che sono anche l'oggetto spontaneo del suo desiderio sessuale. Se un ragazzo è gay, cioè se il suo desiderio affettivo e sessuale spontaneo è orientato verso i ragazzi, ciò non significa però che quel ragazzo non possa avere una maggiore o minore reattività sessuale anche a situazioni e a stimoli non corrispondenti al suo orientamento sessuale. Ma va sottolineato che quel ragazzo non avrebbe comunque cercato spontaneamente quelle situazioni e quegli stimoli, anzi spontaneamente si sarebbe comunque rivolto verso un'affettività e una sessualità gay. Dato l'enorme peso che i condizionamenti sociali hanno sulla espressione della sessualità di coppia, non è affatto detto che l'interesse e il desiderio spontaneo si manifestino attraverso comportamenti sessuali di coppia coerenti con gli interessi e i desideri spontanei, cioè con l'orientamento sessuale, tanto più che un ragazzo gay può essere comunque più o meno reattivo anche a stimoli di tipo etero. La masturbazione individuale è assai meno condizionata dai fattori sociali, proprio perché non coinvolge direttamente altre persone, e in genere manifesta senza distorsioni il vero orientamento sessuale di un ragazzo, ossia il suo desiderio spontaneo, sia affettivo che sessuale. L'orientamento sessuale non è una scelta, ma è un dato di fatto. Non si può scegliere di essere gay, non si impara ad essere gay se non lo si è già. Dell'orientamento sessuale si può solo prendere atto. Non è qui il caso di chiedersi quali ne siano le cause. Quello che interessa è che l'orientamento sessuale non ha nulla a che vedere con le scelte individuali. Non hanno quindi alcun senso le valutazioni di carattere moralistico, proprio perché l'orientamento sessuale non si sceglie. Etero, gay, bisex, si è o non si è? Non è una questione di tipo culturale che si può apprendere. Chi non è gay può vivere immerso in una comunità gay, ma in ogni caso non diventerà comunque gay. Tutti i gay crescono in un ambiente che non solo non è gay, dato che i gay sono una minoranza della popolazione, ma in un ambiente fortemente eterocentrico e sono quindi inseriti in un processo educativo che è costruito in modo esclusivo per la formazione degli eterosessuali. Nessuno spinge un ragazzo giovanissimo a porsi domande sulla sua sessualità, ma sia la famiglia che la scuola che il gruppo dei pari lo spingono a una omologazione etero sempre più forte. Un ragazzo gay, nel corso degli anni, passa dalla inconsapevolezza alla coscienza di essere gay e quindi all'accettazione dell'essere gay, se non intervengono fattori esterni di disturbo particolarmente condizionanti. Il passaggio è graduale e non è traumatico e può avvenire con modalità temporali estremamente variabili. Ci sono ragazzi che a 14 anni hanno già pienamente accettato la loro omosessualità, ci sono uomini adulti che non riescono ad accettarla nemmeno a 50 anni e vedremo tra poco perché. I fattori che possono condizionare il processo verso la consapevolezza e l'accettazione sono molti e molto variabili in rapporto all'età, all'ambiente familiare, sociale e alle condizioni individuali. Tutti questi fattori però ritardano o impediscono la consapevolezza e l'accettazione dell'omosessualità e sono quindi dei fattori di repressione della sessualità spontanea. Prima della pubertà è improprio parlare di omosessualità. Il termine assume un significato specifico solo dopo la pubertà. Quando un ragazzo comincia a sperimentare la sessualità fisica e scopre la masturbazione. E qui intervengono le prime forme di repressione della sessualità, sia etero che gay, attraverso i sensi di colpa legati alla masturbazione. Sono gli anni in cui un ragazzo considera la masturbazione qualcosa di privatissimo e di proibito e cerca di ritagliarsi degli spazi di privacy che gli consentano un'esplorazione sessuale non messa a rischio da altri elementi di disturbo. La coscienza religiosa e l'educazione moralistica, che vede nella sessualità qualcosa di morboso, possono reprimere la sessualità sul nascere e legarla stabilmente ai sensi di colpa. Questi meccanismi valgono per tutti i ragazzi, sia etero che gay, ma mentre intorno agli 11-13 anni per i ragazzi etero il gruppo dei pari tende a presentare la sessualità etero, in particolare la masturbazione in chiave etero, come una trasgressione che in qualche modo è necessaria per diventare grandi, e questo fenomeno allevia la capacità repressiva dei meccanismi su base religiosa e familiare e conferma anzi i ragazzi in un senso di appartenenza al proprio gruppo, proprio sulla base di una sessualità come quella degli altri ragazzi, per i ragazzi gay il gruppo dei pari agisce in senso inverso, perché la sessualità gay è pesantemente bollata con epiteti di vario tipo. Un ragazzo gay non si riconosce nelle esperienze sessuali dei suoi compagni e si rende conto che, mentre loro possono parlare delle proprie esperienze e vantarsene per essere ritenuti grandi, per lui questa possibilità è esclusa a priori. Sono questi i terribili anni della scuola media, probabilmente quelli più sgradevoli per un ragazzo gay che deve rendersi conto che la sua sessualità non solo è diversa da quella degli altri ragazzi, ma è considerata degradante e sporca. Questo fatto produce spesso delle forme di radicale repressione non della sessualità dei ragazzi più giovani, ma esclusivamente delle sue manifestazioni esteriori, visibili. Un ragazzo quattordicenne non corteggerebbe comunque in modo esplicito un suo compagno perché la reazione sociale lo condiziona in questo. Ma la sessualità gay della masturbazione resta e non viene in genere assolutamente condizionata dagli atteggiamenti sociali. Vorrei sottolineare che nella stragrande maggioranza dei casi nemmeno la repressione su base religiosa riesce a indurre sensi di colpa nei ragazzi più giovani di fronte al loro essere gay. I ragazzi che vanno in chiesa si confessano di essersi masturbati, non di essersi masturbati con fantasie gay, cioè sentono come colpa l'atto e non la fantasia che lo determina. Molti ragazzi sono talmente lontani in termini spontanei dal considerare l'omosessualità per sé una colpa, che quando si rendono conto che la Chiesa condanna l'omosessualità restano perplessi. In buona sostanza, intendo dire che l'omosessualità scoperta attraverso la masturbazione subito dopo la pubertà risente di condizionamenti che ne frenano le manifestazioni esterne, ma che non riescono comunque a colpevolizzarla agli occhi dei ragazzi. Fin qui ci siamo occupati di ragazzi che avevano vissuto la loro infanzia e la loro preadolescenza senza traumi e senza carenze affettive. Il discorso si complica certamente quando i ragazzi crescono in situazioni stressanti oppure sono sottoposti a traumi, per esempio assistere a scene di violenza, peggio ancora subire violenza fisica da parte dei familiari o essere coinvolti inconsapevolmente in attività sessuali da parte di adulti. Su queste situazioni, come su quelle dei ragazzi che manifestano forme significative di ansia o toni marcatamente depressivi già in età adolescenziale, o che presentano disturbi caratterizzati da idee ricorrenti delle quali non sembra possibile liberarsi, bisognerebbe allargare molto il discorso. Il periodo che va dagli 11 ai 14 anni è in realtà delicatissimo. Si pongono le basi affettive della sessualità ed è bene che questo accada in un clima sereno, senza tensioni emotive e soprattutto con degli esempi di rapporti affettivi familiari che possono essere dei punti di riferimento. Ma lasciamo da parte queste situazioni delicatissime e molto complesse e chiediamoci che cosa accade quando i condizionamenti sono tanto precoci e tanto forti da impedire la formazione di un'identità sessuale gay. Va detto subito che le forme di comune condizionamento sociale su base religiosa o sulla base delle aspettative familiari non riescono in genere ad impedire la formazione di un'identità sessuale gay. I condizionamenti veramente violenti per un ragazzo gay sono altri e sono molto più subdoli. In buona sostanza non è tanto la repressione dell'omosessualità ad essere pericolosa, quanto la facilità dell'accesso in età estremamente precoce ad attività eterosessuali. In sostanza, un ragazzo gay che in età preadolescenziale ha contatti sessuali con ragazzine o con ragazze tende a strutturare una sessualità di tipo etero. Si tratta del cosiddetto imprinting etero dei ragazzi gay. Non c'è niente che possa indurre un ragazzo a considerarsi etero più del fatto di aver avuto dei contatti sessuali etero. Va sottolineato che questa incipiente identità etero tende ad integrarlo nel gruppo dei pari e in questo lo gratifica. Spesso l'imprinting sessuale è solo apparentemente etero, perché è legato ad attività sessuali che coinvolgono ragazze, ma coinvolgono anche ragazzi. Queste attività sessuali, che dai ragazzi etero sono identificate come etero al 100%, vengono interpretate in modo analogo anche dai ragazzi gay, ma in realtà non hanno per questi ultimi una valenza dello stesso genere, ma sono molto più ambigui. Il ricordo di queste forme di imprinting sessuale, diciamo così, misto, si manifesta in forme ambivalenti anche nella masturbazione, che resta in apparenza, ma soprattutto in apparenza, una masturbazione con contenuti etero. L'imprinting sessuale etero rappresenta il più pesante condizionamento che un ragazzo gay possa subire, anche se non è affatto vissuto come un condizionamento. La strutturazione imitativa di una, chiamiamola così, sessualità etero avviene gradualmente e tende a stabilizzarsi, e le pulsioni omosessuali restano eclissate da una sessualità etero realmente vissuta e tanto più socialmente gratificante. Mettiamo ora da parte l'idea di imprinting etero. E chiediamoci perché i comuni meccanismi repressivi della sessualità gay, legati alla religione e alle spinte familiari e sociali, agiscono in modo più pesante sui ragazzi più grandi e sugli adulti che non sui ragazzi più giovani. Per dare una risposta a questa domanda, dobbiamo tenere presente che un ragazzo giovanissimo va strutturando la propria sessualità, salvo che non abbia una pseudo-identità etero derivante da un imprinting etero, e la costruisce senza bisogno di demolire nulla. Per un ragazzo grande o per un adulto che hanno già una sessualità strutturata, una pseudo-sessualità strutturata, lasciare libero spazio alla propria sessualità gay può richiedere un processo di destrutturazione della propria identità sessuale precedente. In altri termini, un ragazzo grande o un adulto, per accettare la propria identità sessuale gay, deve demolire il concetto che ha di sé come etero e poterlo sostituire con una diversa percezione di sé come gay. E tutto questo incontra comunque notevoli resistenze. L'esperienza insegna che, in genere, ad andare incontro alle forme di più forte repressione dell'omosessualità non sono i ragazzi che si sono sentiti gay fin dall'inizio, ma quelli che, dopo essersi formati una coscienza di sé come etero, si trovano nelle condizioni di dover mettere in crisi buona parte della struttura della loro personalità. In sostanza, i più pesanti meccanismi di repressione dell'omosessualità adulta intervengono a tutela di una sessualità, o meglio sarebbe dire di una pseudo-sessualità etero già strutturata. A questo punto il semplice riferimento all'imprinting etero, se è utile a spiegare la pseudo-identità etero dell'adolescente, appare troppo debole per spiegare perché un adulto gay possa finire per identificarsi in una pseudo-sessualità etero, cioè per avere di se stesso un'immagine come di un sé etero. Qui il meccanismo non è esplicitamente repressivo e deriva in sostanza da un insieme di errori interpretativi nei quali si cade o si è indotti a cadere per il fatto che siamo immersi in una società che sottolinea i segnali di tipo etero e trascura sistematicamente quelli di tipo gay. Faccio solo un esempio, prendendo in considerazione due situazioni simmetriche. Nella prima, un ragazzo che si ritiene gay avverte pulsioni etero, mentre nella seconda un ragazzo che si ritiene etero avverte pulsioni gay. Vedremo che se un errore di interpretazione ci può essere in entrambi i casi, la repressione sessuale opera solo nel secondo, ossia solo per il ragazzo che si è sempre ritenuto etero e che prova pulsioni gay. Un ragazzo gay, cioè un ragazzo che ha una sessualità masturbatoria gay, che si trovi in una situazione sessuale coinvolgente con una ragazza, va in erezione, può provare desiderio sessuale per quella ragazza, può arrivare anche ad avere con lei un rapporto sessuale anche coinvolgente. Ora, sulla base del modello interpretativo legato ai comportamenti sessuali, badate bene, dico ai comportamenti, non al desiderio spontaneo, scatta la deduzione: posso fare sesso con una ragazza in modo gratificante, quindi sono etero. Questo ragionamento appare tra l'altro confortante perché svincola il ragazzo dalle complicazioni che l'essere gay gli comporterebbe ed è rassicurante in termini di accettazione sociale. Nel sottovalutare la masturbazione gay a favore di una sessualità di coppia etero per identificare il proprio orientamento sessuale, non opera quindi alcuna forma di repressione. Se consideriamo invece un ragazzo che si è ritenuto sempre etero, cioè con una masturbazione e con una sessualità di coppia costantemente etero, e ipotizziamo che questo ragazzo cominci a provare attrazione sessuale per un altro ragazzo, al punto di masturbarsi pensando a quel ragazzo, addirittura di avere rapporti sessuali con lui, non arriveremo altrettanto automaticamente alla deduzione sono sessualmente attratto da un ragazzo, quindi sono gay, perché in questo caso la deduzione sarebbe destabilizzante e per accettarla bisognerebbe destrutturare la visione di sé come etero per sostituirla con una visione di sé come gay che è assai meno rassicurante. Sono queste le situazioni tipiche in cui scatta la repressione della sessualità gay. Il ragazzo che si crede etero smette di frequentare il ragazzo che gli desta delle reazioni sessuali perché in questo modo il rischio di destabilizzare la propria presunta eterosessualità diminuisce. Ma siccome questo in genere non basta, smette addirittura forzatamente di masturbarsi perché la sua masturbazione sarebbe in chiave gay, cosa che metterebbe in crisi la sua identità sessuale etero. Vorrei sottolineare un elemento fondamentale. La repressione della sessualità gay ha due aspetti complementari. Il primo si concretizza nell'evitare ogni occasione di eccitamento sessuale in chiave gay e il secondo si manifesta in una intensificata attività sessuale etero a livello di coppia. Spesso questo secondo meccanismo porta a reazioni nevrotiche, perché non si tratta di rapporti sessuali desiderati per ragioni legate all'affettività, ma di meccanismi di conferma della propria identità sessuale. In alcuni casi la repressione della sessualità gay porta a decisioni irrevocabili come il matrimonio, che è considerato in questi casi come una specie di medicina dell'omosessualità, cosa priva di senso sotto qualsiasi punto di vista. Bisogna non dimenticarsi mai che l'omosessualità, per quanto repressa, finisce comunque prima o poi per tornare a galla. Aggiungo un'altra cosa molto importante. A spingere forzatamente verso l'eterosessualità i ragazzi gay che reprimono la loro omosessualità, a vantaggio di un possibile rapporto di coppia etero, sono spesso le loro ragazze che non hanno la più pallida idea di che cosa sia realmente l'omosessualità e che si sentono dispostissime a indurre o a cercare di indurre i loro ragazzi ad una eterosessualità esclusiva sulla base di criteri di seduzione femminile. Queste cose all'inizio sembrano anche avere successo, perché l'eliminazione della sessualità gay è compensata da una sessualità etero più intensa e per di più socialmente accettata e incoraggiata, che dà la sensazione di essere realmente etero. Ma alla lunga il meccanismo si logora e spesso le stesse ragazze che hanno incoraggiato i loro ragazzi gay al matrimonio si trovano in posizione di contrasto radicale con i loro mariti di cui non possono in nessun modo accettare l'omosessualità. Una donna etero sposa un uomo gay perché pensa che non sia gay, oppure che non lo sia più, perché identifica l'orientamento sessuale del ragazzo con i comportamenti sessuali che vede, non con i desideri sessuali che non vede. Quando si accorge che il marito è realmente gay e che in una situazione matrimoniale si sente a disagio, se la prende col marito considerandolo traditore del matrimonio. Ma il concetto stesso di tradimento è mal posto. Quando in una coppia si parla di tradimento, si parte dal presupposto che il patto, diciamo così, tradito sia un patto sacro e stabile. Ma le radici del tradimento stanno proprio nella fragilità, nella inconsistenza del patto di coppia o addirittura nel fatto che il patto di coppia è il risultato di una violenta forzatura della spontaneità, per motivi che con l'affettività o con la sessualità non hanno proprio nulla a che vedere. Parlare di tradimento dopo il matrimonio con un gay da parte di una donna consapevole è del tutto incongruo. Se il ragazzo ha detto come stavano le cose alla ragazza prima del matrimonio e i due sono arrivati alla decisione di sposarsi lo stesso, spesso la responsabilità è dei familiari o di personaggi di vario tipo che, non sapendo nulla di omosessualità, si presentano come dei consiglieri affidabili in una materia tanto delicata della quale tuttavia sono completamente ignoranti. Una considerazione conclusiva. Dalla repressione dell'omosessualità legata ai meccanismi che abbiamo descritto sopra si esce solo se l'ambiente è favorevole e se un gay ha il coraggio di dirsi la verità, cosa che non è mai scontata. Ci sono persone che preferiscono reprimersi o forse che non hanno di fatto nessuna possibilità di scelta. In ogni caso non è possibile sostituirsi ad un gay represso e cercare di indurlo ad uscire dalla repressione sessuale sulla base del nostro modo di vedere le cose. Uscire dalla repressione sessuale autoimposta non è affatto facile e non è neppure detto che produca comunque un risultato positivo se mancano le condizioni necessarie. Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro.